Ad alta voce. Elio De Capitani legge Limonov di Emmanuel Carrer. Traduzione di Francesco Bergamasco. Nella ex Jugoslavia, le guerre non sono state mai o quasi mai combattute da eserciti regolari, bensì da milizie. E arrivati a questo punto vorrei chiamare al banco dei testimoni due giornalisti che hanno seguito sul campo tutta la vicenda e hanno scritto due libri sull'argomento. Sono Jean Rollin e Jean Asfeld. Il primo è amico mio, il secondo lo conosco un po' e li ammiro entrambi. Rollin e Asfeld sono molto amici e i loro resoconti combaciano. Quello di Jean Rollin si intitola Campagne, quello di Jean Asfeld L'ère de la guerre. Nella prima pagina di Campagne, Jean Rollin descrive, cito, un posto di blocco sorvegliato da miliziani di cui non è facile capire l'appartenenza. La guerra era all'inizio. Il tempo era bello, le perdite ancora limitate da entrambe le parti, c'era ancora il piacere da poco scoperto di portare armi, usarle per imporre la propria legge, terrorizzare i civili, violentare le ragazze, insomma, godere gratuitamente di tutte quelle cose così difficili e costose da ottenere in tempo di pace, quando, se va bene, bisogna lavorare per procurarsele. A quelle torme di giovani contadini, felici di ubriacarsi sparando in aria, si sono presto aggiunti tifosi di calcio di ogni genere, piccoli e grandi delinquenti, veri e propri psicopatici, mercenari stranieri, slavofili russi venuti a difendere l'ortodossia fra i serbi, neonazisti nostalgici degli Ustascia tra i croati e jihadisti fra i musulmani bosniaci che tra non molto usciranno da dietro le quinte. Quel piccolo mondo aveva in comune una cultura paramilitare i cui elementi erano, scrive ancora Jean Rollin, tute mimetiche, berretti verdi e Ray-Ban, Kalashnikov, fucili a pompa o mitragliatrici Uzi decorati con una sfilza di adesivi dei puffi. Alcolismo sfrenato, 4x4 non immatricolati, stracarichi di cetnici ilari tatuati con capelli lunghi e barbe al vento, i quali, di ritorno dal fronte o da una qualsiasi operazione di pulizia, sbraitano, tengono la musica a tutto volume, sgommano e sparano in aria, nel migliore dei casi, sulla gente negli altri. Puttanelle che ridacchiano in cucina mentre in bagno gli uomini incidono con una sega le costole di un sospetto. E su un muro questa scritta: We want war, peace is death. Jean Asfeld mostra in azione la più famosa delle milizie serbe, le Tigri, capeggiata da un certo Željko Rajnatović, stimato rappresentante del prosenetismo belgradese, che si è conquistato i galloni di criminali di guerra con il nome di Arkan. La scena, a cui Eduard avrebbe potuto assistere, si svolge all'indomani della resa di Vukovar, in un magazzino dove sono stati radunati i prigionieri croati scovati durante le ultime offensive nelle cantine in cui si erano rifugiati. In teoria, questi croati sarebbero sotto la protezione dell'esercito federale, ma l'esercito si fa cortesemente da parte per consentire ai miliziani di Arkan di effettuare la loro scelta fra i prigionieri. Il criterio della scelta è il più delle volte il rancore personale, perché vincitori e vinti si conoscevano benissimo ai tempi non così lontani, in cui nessuno si preoccupava di chi fosse serbo o croato. Abitavano negli stessi paesi, negli stessi quartieri. Ieri quei prigionieri grigi, terrorizzati, erano i vicini di casa, i compagni di bevute di coloro che oggi li fanno salire, spingendoli con il calcio del fucile, su camion militari in partenza per una destinazione ignota. Asfeld descrive Arkan, che sovrintende all'operazione, come una specie di Rambo. Quanto ai suoi uomini, il giorno seguente Asfeld ne raccoglie uno che fa l'autostop. È un giovanotto simpatico, sportivo. È in licenza, va a trovare la madre e racconta tutto allegro quello che lui e i suoi colleghi fanno agli Ustascia, leggi ai croati, che cadono nelle loro mani. La prova iniziatica consiste nel tagliare lentamente l'arteria giugulare di un prigioniero inginocchiato. Il ragazzo precisa che chi è troppo nervoso è costretto a ricominciare, che quelli che si sono rifiutati, pochi, hanno gettato la spugna. Dice che la prima volta fa uno strano effetto, naturalmente, ma che dopo si va a far bardoglia tutti contenti. Ci tenevo a riportare questa testimonianza prima di far sentire la campana di Eduard, che quando ha incontrato Arkan nel suo quartier generale Yerdut vicino a Bukovar, lo ha giudicato acuto e prudente. Ed è orgoglioso del fatto che Arkan abbia capito di non avere di fronte uno dei soliti giornalisti. Arkan e lui hanno bevuto un bicchiere di Slivovitz insieme e si sono trovati d'accordo su tutto. Gorbaciov e Yeltsin meritavano di essere fucilati insieme a Tugiman e Genscher. In Russia bisognava fare la rivoluzione, gli intellettuali francesi che sostenevano i croati erano degli irresponsabili, eccetera. Edoardo ha chiesto ad Arkan se avrebbe accolto lui e altri volontari russi. «Sono tutti benvenuti», ha risposto Arkan con un gesto largo. Quel giorno è nata una bella amicizia. E qualche mese dopo, quando ha letto sul Monde che in Bosnia uno scontro tra serbi e musulmani si era concluso con la vittoria dei miliziani di Arkan, a Edoard sono venute le lacrime agli occhi. È andato a prendere la foto in cui lui e Arkan posano insieme al cucciolo di Lince, la mascotte del battaglione, e guardandola si è sentito afferrare da un'intensa nostalgia. «Come vorrei, Arkan, fratello mio, essere di nuovo al tuo fianco. Non vedo l'ora di tornare a far la guerra sulle montagne dei Balcani». Si è cominciato a capirci qualcosa di più, almeno negli ambienti che frequentavo io, solo nella primavera del 1992, quando si sono temporaneamente interrotti i combattimenti fra serbi e croati e sono iniziati quelli in Bosnia. I serbi, fanaticamente aizzati a Belgrado dall'orrendo presidente Milosevic e in Bosnia dall'osco Radovan Karadzic, erano senza ombra di dubbio i cattivi della situazione, mentre i musulmani bosniaci, rappresentati da un uomo di una certa età, dal bel volto di umanista, Alija Izetbegovic, erano vittime di un'odiosa aggressione. E questa parola non era ancora abbastanza forte, presto le sarebbe stata preferita genocidio. Quei musulmani biondi con gli occhi azzurri, che ascoltavano musica classica in appartamenti zeppi di libri, erano musulmani ideali. Ci sarebbe tanto piaciuto averne di simili da noi. E se Sarajevo, con la sua armoniosa società multietnica, era diventata il simbolo dell'Europa che avremmo voluto, il merito era soprattutto loro. Ansiosi di difendere questa Europa e infiammati dal ricordo della guerra di Spagna, parecchi dei miei conoscenti hanno cominciato a recarsi con regolarità a Sarajevo assediata, dormendo senza potersi lavare in case bombardate, percorrendo a zigzag sotto il tiro dei cecchini strade dai marciapiedi sventrati, ubriacandosi con il recondito pensiero che fosse arrivato il loro ultimo giorno e spesso, il luogo si prestava, innamorandosi. A posteriori mi chiedo per quale motivo non mi sono concesso quello sfizio che, oltre a essere romanzesco, accresceva il tuo prestigio. Un po' per paura. Probabilmente sarei andato a Sarajevo se, proprio quando mi veniva rivolta la proposta, non fossi venuto a sapere che a Janatsfeld era appena stata amputata una gamba dopo essere stato colpito laggiù da una raffica di Kalashnikov. Ma non voglio buttarmi troppo giù. È stato anche per prudenza. Diffidavo. E ancora diffido delle unioni sacre, anche quelle che non oltrepassano la cerchia limitata delle persone che frequento. Se mi considero incapace di ogni violenza, riesco pure a immaginarmi facilmente, forse troppo, le ragioni o le concatenazioni di eventi che in altre epoche avrebbero potuto spingermi al collaborazionismo, allo stalinismo o alla rivoluzione culturale. Forse tendo anche troppo a chiedermi se fra i valori accettati senza discutere dal mio ambiente, i valori che le persone del mio tempo, del mio paese, della mia classe sociale giudicano irrinunciabili, eterni e universali, non possa essercene qualcuno che un giorno risulterà grottesco, scandaloso o semplicemente sbagliato. Quando individui poco raccomandabili come Limonov o suoi simili sostengono che al giorno d'oggi l'ideologia democratica e dei diritti umani è l'esatto equivalente di ciò che è stato il colonialismo cattolico, le stesse buone intenzioni, la stessa buona fede, la stessa incrollabile certezza di portare ai selvaggi il vero, il bello, il bene, non mi incantano con la loro argomentazione relativistica, però non ho niente di concreto da contrapporvi. E siccome nelle discussioni di politica mi trovo spesso d'accordo con chi ha preso la parola per ultimo, ascoltavo con molta attenzione quelli che la sapevano lunga, allorché spiegavano che Izetbegovic, presentato come un apostolo della tolleranza, era in realtà un musulmano fondamentalista, circondato da mujahideen, deciso a instaurare a Sarajevo una repubblica islamica e che, al contrario di Milosevic, aveva tutto l'interesse a prolungare il più possibile l'assedio e la guerra, che i serbi, nella loro storia, erano stati sotto il giogo ottomano quanto bastava perché nessuno si sorprendesse se non avevano voglia di ripiombarvi. Infine, che se si guardavano bene tutte le fotografie pubblicate dalla stampa raffiguranti vittime dei serbi, una su due in realtà mostrava una vittima serba. Annuivo. Sì, la faccenda era più complicata. Poi ascoltavo Bernard-Henri Lévy scagliarsi proprio contro queste affermazioni e dire che così si giustificava ogni viltà diplomatica, ogni cedimento, ogni dilazione. Rispondere a coloro che denunciano la pulizia etnica di Milosevic e la sua cricca dicendo «è una faccenda più complicata», è proprio come dire che, certo, probabilmente i nazisti hanno sterminato gli ebrei in Europa, ma se ci si riflette attentamente, la faccenda è più complicata. «No», si infuriava Bernard-Henri Lévy, «la faccenda non è più complicata, anzi, è tragicamente semplice». E io annuivo anche questa volta. Ricordo di avere sfogliato in quel periodo un libretto intitolato, senza ambiguità, Avec les Serbes, cofirmato da una decina di scrittori francesi, Besson, Matzneff, Dutour, molti di quelli che scrivevano sull'idiot, per rispondere alla demonizzazione di un intero popolo, trasformato in capro espiatorio dai signori del nuovo ordine mondiale, leggi gli americani, allo scopo di consolidare il loro dominio terroristico. L'iniziativa mi sembrava, se non altro, coraggiosa, perché gli autori non avevano nulla da guadagnarci. Il che non depone affatto a favore delle loro tesi, lo so. Non c'è nulla da guadagnare a essere negazionisti. E non c'era nulla da guadagnare neanche a dichiararsi fascisti nel 1945, come fece, dopo l'esecuzione del cognato Robert Brasillach, Maurice Bardèche, che durante l'occupazione se n'era rimasto più o meno tranquillo e poteva sperare di passarla liscia al momento della liberazione. Questo coraggio non ha nulla a che vedere con la lucidità. Io lo considero stupido, ma è comunque coraggio. Poiché mi riusciva molto difficile affrontare questa parte del mio libro e per cautelarmi accumulavo letture, ricerche e lavoro di documentazione, mi sono spinto fino a rileggere quel libello, che mi ha fatto la stessa impressione di 15 anni fa. Vi ho trovato un fondo di tradizionale serbofilia francese. Del resto, la stessa di Mitterrand, Jean Dutour. Che cosa ci guadagnerà la Francia a guastare i suoi rapporti con vecchi amici, i serbi, a vantaggio di popoli che per lei non significano nulla e non le saranno affatto riconoscenti, bosniaci e kosovari? E argomenti che, per i più giovani, si possono riassumere così. Sono stato a Belgrado. Le ragazze sono belle. Lo Zlibovic scorre a fiumi. Si canta fino a tarda notte. Gli abitanti non sono per nulla barbari, ma orgogliosi, pudichi, offesi dall'essere malvisti da tutti, a cominciare dai francesi, che hanno sempre considerato loro amici. D'accordo, avevo pensato, ma non è questo il punto. E quanto all'argomento io ci sono stato, a me, che non c'ero stato, non faceva nessuna impressione. E lo trovo più convincente in bocca a chi al fronte c'è stato davvero, in due dei campi o in tutti e tre, e non solo nelle retrovie di una parte e per parecchi mesi, non per qualche giorno. In sostanza, i testimoni di cui mi fidavo e di cui, rileggendoli oggi, penso che facevo bene a fidarmi, erano i due Jean, Roland e Asfeld. A nessuno dei due, penso, piacerebbe assumere il ruolo dell'eroe positivo in queste pagine. Pazienza. Ammiro il loro coraggio, il loro talento e soprattutto il fatto che, come il loro modello George Orwell, antepongano la verità a ciò che vorrebbero fosse la verità. Anche loro, come Limonov, non fingono di ignorare che la guerra è eccitante e che, potendo scegliere, ci si va non per virtù ma per piacere. Amano l'adrenalina e l'accozzaglia di spostati che si incontrano sulle linee di ogni fronte. Non sono indifferenti alle sofferenze delle vittime, a qualsiasi campo esse appartengono, e riescono a capire, fino a un certo punto, anche le ragioni dei carnefici. Curiosi del mondo nella sua complessità, se si trovano di fronte a un evento che contraddice il loro punto di vista, non solo non lo occultano, ma lo mettono in risalto. È il caso di Jean Asfeld, il quale, per una sorta di manicheismo condizionato, credeva di essere finito in un'imboscata di cecchini serbi decisi a colpire un giornalista. E, dopo un anno di ospedale, è tornato a Sarajevo per indagare, giungendo alla conclusione che i proiettili che gli erano costata la gamba provenivano, per colmo di sfortuna, da miliziani bosniaci. Questa onestà mi colpisce ancor più perché non sfocia nel "sono tutti uguali", che è la tentazione di quelli che la sanno lunga. Giacché arriva infatti il momento in cui bisogna scegliere da che parte stare o comunque da quale posizione osservare gli eventi. Superata la prima fase dell'assedio di Sarajevo, quando, con l'acceleratore a tavoletta e a prezzo di enormi spaventi, era ancora possibile bordeggiare da un fronte all'altro, si doveva scegliere se raccontare gli eventi dall'interno della città assediata o dalle postazioni degli assedianti. Anche per uomini come i due Jean, restii a unirsi al coro delle anime belle, la scelta è stata naturale. Quando uno è più debole e l'altro più forte, si continua, per onestà, a sottolineare che il più debole non è tutto bianco e il più forte non è tutto nero, ma ci si schiera con il più debole. Si va dove cadono le granate, non dove partono. Quando la situazione si capovolge, per un istante si resta sorpresi di provare, come Jean Rollin, una innegabile soddisfazione al pensiero che una volta tanto erano i serbi a beccarsi tutta quella roba. Ma è un istante che non dura a lungo. La ruota gira e se si è quel genere di uomo, ci si ritrova a denunciare la parzialità del Tribunale Internazionale dell'Aia, che persegue con inflessibilità i criminali di guerra serbi, ma lascia gli omologhi croati e bosniaci alla prevedibile clemenza dei loro tribunali nazionali. Oppure si fanno dei servizi sull'orribile condizione in cui vivono oggi, nelle loro enclave del Kosovo, i serbi sconfitti. Una regola, atroce ma raramente smentita, vuole che carnefici e vittime finiscano per scambiarsi i ruoli. Bisogna adattarsi in fretta e non avere lo stomaco delicato per restare sempre dalla parte di queste ultime. Pavel Pawlikowski è un regista inglese di origine polacca. Ho in comune con lui parecchie curiosità e ho incrociato più volte la sua strada durante la stesura di questo libro. Pavel ha dedicato un toccante documentario a Venedikt Yerafeyev, l'autore di Mosca sulla vodka, l'eroe dell'underground ai tempi di Brezhnev, che era andato a cercare quando era ormai ai suoi ultimi mesi di vita, povero, alcolizzato, divorato dal cancro, in uno stato di completo abbandono che Limonov probabilmente avrebbe guardato senza alcuna compassione, ma che a me ha fatto venire le lacrime agli occhi. Nel 1992 Pavel era rimasto perplesso di fronte all'infuocata retorica che, a Londra non meno che a Parigi, presentava i serbi come gli eredi dei nazisti. Al pari dei miei, anche i suoi amici giornalisti, scrittori e registi erano di stanza a Sarajevo assediata. Così Pavel ha voluto andare a vedere che cosa passava per la testa di quelli che stavano dall'altra parte. Si è trovato a riprendere musicisti che, accompagnandosi con la ghironda, cantavano davanti a bivacchi di soldati melopee antiche quasi come la nostra chanson de Roland, nelle quali si parlava di sconfitta in terra, vittoria in cielo e di appiccare il fuoco alle case dei turchi. Ha seguito l'eco di queste canzoni ai matrimoni di campagna, nei girotondi dei bambini a scuola, bambini comunque armati di Kalashnikov. I nomi dei prodi di sei secoli prima erano stati sostituiti da quelli dei prodi contemporanei. Radovan, Karadzic e Ratko, Mladic, il capo militare dei serbi. Ha ripreso un consiglio di guerra in cui si vedono Radovan e Ratko chini su carte geografiche che ridisegnano con un pennarello, spostando confini e con essi intere popolazioni, cercando di mettersi d'accordo su quello che si può concedere e quello che non si può concedere in nessun caso. Lo stesso identico esercizio in cui si sono sfiancati eserciti di diplomatici a Lisbona, Ginevra e Dayton, con la differenza che in queste riprese ci sono solo loro due, ed è una scena affascinante da osservare. Pavel ha filmato anche Pale, la stazione sciistica costruita nel 1980 in occasione dei Giochi Olimpici di Sarajevo, facente funzione di capitale della Repubblica Serba di Bosnia, una specie di Vichy dei Balcani con chalet e piste da bob al posto delle terme. Proprio a Pale, alla mensa ufficiali, Pavel ha notato un tipetto buffo con un gran paio di occhiali, capelli a spazzola e un cappotto dell'esercito federale infilato sopra la giacca di cuoio, il quale, pur senza essere uno di loro, sembrava in ottimi rapporti con un gruppo di cetnici dall'aria particolarmente minacciosa. La calibro 7.65 che gli pendeva sulla coscia dava in lui, secondo Pavel, l'impressione di un travestimento. L'uomo la esibiva come a Tahiti i turisti esibiscono le ghirlande di fiori offerte loro in segno di benvenuto quando scendono dall'aereo. In mensa stavano pranzando i membri di una troupe di intendeux. Quando ha sentito che parlavano francese, quello si è avvicinato e si è presentato nel modo diretto che è di prammatica in guerra. Eduard Limonov, scrittore, interessato ai punti caldi del pianeta. Presente a Vukovar in dicembre, in Transnistria in luglio. Una specie di Bernard Henri Lévy, ha aggiunto con un risolino, ma di tutt'altro orientamento. Quelli di intendeux lo hanno squadrato, all'inizio perplessi, poi disgustati. «Le sembra normale per un giornalista portare armi?» gli ha chiesto uno di loro. Un altro, senza tanti giri di parole, gli ha dato della carogna. Il russo probabilmente non si aspettava quella reazione, ma non si è perso d'animo. «Potrei farvi fuori», ha detto. E, indicando i cetnici, i miei amici non sarebbero contenti, ma penso che mi coprirebbero. Permettetemi soltanto di dirvi che io non sono un giornalista, sono un soldato. Un gruppo di intellettuali musulmani persegue con ferocia il sogno di instaurare qui uno stato musulmano e i serbi non ne vogliono sapere. Io sono un amico dei serbi. E voi potete andare a fare in culo con la vostra neutralità, che è sempre soltanto vigliaccheria. Buon appetito. Quindi ha girato i tacchi e raggiunto la sua tavolata di cetnici. Il pasto è proseguito in un silenzio di tomba. Quando sono usciti dalla mensa, il fonico della troupe ha detto a Pavel che lui sapeva chi era quel Limonov. Aveva letto un suo libro. Un libro fantastico, tra l'altro, in cui quello raccontava gli anni di New York, anni in cui viveva come un cane rabbioso, e si faceva inculare dai neri. Pavel è scoppiato a ridere. Inculare dai neri. Credi che i suoi amici cetnici lo sappiano? Nell'altro schieramento di scrittori stranieri ce n'erano a iosa. In quello serbo erano molto più rari. A Pavel è venuto in mente di chiedere al rottinculo russo se avrebbe accettato di intervistare Karadzic per il suo documentario. Era una soluzione che gli tornava utile. Perché Pavel non voleva che si sentisse la voce off, né che si vedesse il microfono, difetti dei documentari senza troppe pretese. Ed è così che in Serbian Epics, prodotto dalla BBC e poi ricoperto di premi e trasmesso un po' ovunque, si vede the famous Russian writer Eduard Limonov parlare con il Dr. Radovan Karadzic, psychiatrist and poet, leader of the Bosnian Serbs. La scena si svolge sulle colline dalle quali le batterie serbe bombardano Sarajevo, che, situata sul fondo di una conca, è nella posizione ideale per fare da bersaglio. Si sentono quasi ininterrottamente gli scoppi dei mortai. Limonov e Karadzic sono attorniati da alcuni soldati. Alto, con un ampio soprabito, la zazzera sale e pepe mossa dal vento come il fogliame di una quercia, Karadzic incute soggezione. E mi dispiace ammettere che al suo confronto Limonov, così gracile nella sua giacchettina di pelle nera, sembra un anonimo teppistello di quartiere che cerca di entrare nelle grazie del padrino. Annuisce rispettosamente quando Karadzic gli spiega che lui e i suoi non sono aggressori, ma vogliono soltanto riprendersi le terre che appartengono ai serbi da sempre. A nome dei connazionali russi e di tutti gli uomini liberi del mondo, Limonov risponde, con una sincerità che non metto in dubbio, ma che non gli impedisce di avere l'aria di un leccapiedi, che lui ammira l'eroismo di cui danno prova i serbi, tenendo spavaldamente testa a 15 paesi alleati contro di loro. Dopodiché, tra poeti, parlano di poesia. Karadzic recita pensoso alcuni versi di un'ode che ha composto 20 anni prima e che descrive una Sarajevo in fiamme. Segue un attimo di silenzio, grave di quei misteri che sono le premonizioni, interrotto da qualcuno che vuole il presidente al telefono. È sua moglie. Per rispondere, Karadzic si apparta nella carcassa semicarbonizzata di una cabina di teleferica dove è stato sistemato il telefono da campo. Dice «Sì, sì» e si intuisce che è irritato. «Intanto un soldato gioca con un cagnolino», descrivo le scene del documentario, «e Limonov, lasciato solo, gira attorno a un altro soldato che sta lubrificando la mitragliatrice. Questi, vedendo che Limonov è affascinato dall'arma ed essendo probabilmente desideroso di compiacere un ospite di riguardo, gli propone di provare, se ne ha voglia, come un bambino. Edouard si sistema dietro la mitragliatrice. Segue docilmente le indicazioni del soldato che gli mostra quale posizione assumere. Infine, sempre come un bambino, incoraggiato dalle risate e dalle pacche sulle spalle degli adulti, perde ogni inibizione e ta-ta-ta-ta-ta-ta, svuota il caricatore in direzione della città assediata. Non ho visto il documentario quando è stato trasmesso dalla televisione francese, ma subito si è sparsa la voce che Limonov era stato ripreso nell'atto di uccidere dei passanti nelle strade di Sarajevo. Interrogato al riguardo 15 anni dopo, Limonov alza le spalle e dice di no, di non avere mirato ai passanti. Sparava in direzione della città, sì, ma nel vuoto o in aria. Guardando le immagini attentamente, si deve dare in sostanza ragione a Limonov. All'inizio della sequenza, un piano lungo rivela che la scena si svolge su certe colline piuttosto lontane da Sarajevo, dalle quali i serbi sparano colpi di mortaio sui palazzi della città e non più in basso, dove si appostano invece i cecchini che tirano sui passanti. Ma l'inquadratura di Limonov, che se la spassa con la mitragliatrice, segue un'inquadratura molto ravvicinata della città. E questo cambiamento di scala, presentato come un controcampo, è un po' capzioso. Resta da chiedersi se Limonov avrebbe avuto degli scrupoli a sparare sulla gente e se l'abbia fatto in altre occasioni. Certo è però che, per via di queste immagini e dei racconti che ne sono nati, Limonov è passato tra i suoi amici parigini dallo statuto di affascinante avventuriero a quello di semicriminale di guerra. Ed è anche certo che, dopo aver contattato Pavel Pavlikovsky ed essermi fatto mandare il DVD, Serbian Epics mi ha raggelato al punto che ho abbandonato questo libro per più di un anno. Non tanto perché vi si veda il mio personaggio compiere un delitto, in effetti non si vede nulla del genere, ma perché Edouard vi fa una figura ridicola, un ragazzino che si atteggia a duro in una sagra di paese. Quello che, nella sua tipologia di invasati attratti dalla guerra, Jean Asfel definisce un topolino. Sul soggiorno di Limonov a Sarajevo circola un'altra storia sgradevole. In un ristorante di Pale che si chiama Contichi, Limonov sta partecipando a un ricevimento di ufficiali che bevono e brindano come ussari di Lermontov. Su una pedana c'è un violinista che tiene allegra la compagnia, è un prigioniero musulmano. A un certo punto, per divertirsi, i serbi lo costringono ad accompagnare uno di quei canti cetnici che si sentono nel film di Pavel e che esortano a dare alle fiamme le case dei turchi. Limonov, almeno questa è la sua versione, trova l'idea di cattivo gusto e per rincuorare il violinista gli si avvicina offrendogli un bicchiere di rakia, il torcibudella locale. Quello risponde brusco che l'alcol è vietato dalla sua religione. Imbarazzato per la gaffe, Limonov vorrebbe ritirarsi in buon ordine, ma un serbo che ha sentito il dialogo rincara la dose. «Fa quel che ti ha detto il mio amico russo. Bevi. Vuoi bere, cane di un turco?» Mi immagino la scena. Orribile. Per tutto il resto della serata, Limonov sente pesare su di sé lo sguardo torvo del violinista, che ha interpretato la sua gaffe ben intenzionata come un deliberato proposito di umiliarlo. E se una cosa del genere può al limite capirla da parte dei serbi, che sono suoi nemici, e che a ruoli invertiti lui tratterebbe con pari crudeltà, gli sembra molto più imperdonabile da parte di uno straniero. Edouard ci resta così male che più tardi ritorna dal violinista per spiegarsi e giustificarsi, ma l'altro gli dice freddamente: «Ti odio, hai capito? Ti odio». Al che Edouard risponde: «Ok, tu sei prigioniero, io sono libero, non posso battermi con te, non mi resta che incassare, hai vinto tu». Che cosa pensare di questa storia? A prima vista, che deve essere vera e che deve essere come la racconta Limonov, poiché nulla lo costringeva a raccontarla. Ma la faccenda è più complicata. In effetti, il primo a raccontarla come un atto di ignobile crudeltà da parte di Limonov è stato un testimone, un fotografo ungherese. È così che è circolata. Se si digita Limonov su Google, si finisce per trovarla. Limonov era dunque costretto a fornire la propria versione. E può anche darsi che la gaffe dalla quale nasce un tremendo malinteso sia stata la soluzione più credibile che gli è venuta in mente per coprire un'autentica bassezza, compiuta nel pieno del suo fervore cecnico e di cui lui stesso si vergogna e ha ragione. Personalmente non ci credo, perché non credo che Edouard sia né un vigliacco né un bugiardo, ma chi può dirlo? Elio De Capitani ha letto Limonov di Emmanuel Carrère, traduzione di Francesco Bergamasco, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Jonathan Zenti, registrato da Raffaele Stefani presso Fonologie Monzesi, FM Studio, Monza, editato da Raffaele Stefani e Andrea Cerrato, copyright POL Editeur 2011, tutti i diritti riservati.